sport, io le ho visto una cosa, una ricciola che ha preso, che ce l'aveva in macchina, l'ha portata a farcela vedere, grazie a Marco Monti. Addirittura? Là, mi pare che ha pesato 9 kg, roba del genere. Un pezzo di ricciola che ha scalucinato, sempre di appare la biliata. Beh, che appare, che appare. Adesso vediamo.